失って cosciente strilla attorno si avvicina a te fino a che non dormo si avvicina a te perché è un mondo sporco e non cercai sapere meglio che dormo. Ma che parla ma fa sempre le stesse cose lasciando un sogare e ci contrà ogni voto e non c'è forte chi e ci avanza tutto il giorno ma capì. Ma non piglia la caduta, sto sempre con te, con passo aiuto, sto vicino a te, e scende strilla attorno, non mi fanno sentire, ci stai scedendo l'uomo. Ma che parla ma fa sempre le stesse cose ma già tu so che ci contrà ogni voto e la c'è forte chi e ci avanza tutto il giorno a capire. E ci avanza tutto il giorno, va a capire.